Oppure potete puntare sulla giovane Sick che insegue un pallone sognando Beckham. Se è lo sport che vi interessa, eccovi Colin Firth con la febbre a 90 per l'Arsenal. La finale di campionato da mozzare. Quanto c'è da recuperare? Siamo già oltre i due minuti. Vedrai che scendono dritti da noi e segnano, vedrai se non lo fa. C'è un intero film sul torneo di Wimbledon, ma per il tennis preferiamo una delle trasferte europee di Woody Allen, Match Point. Ci sono momenti in una partita in cui la palla colpisce il nastro. Con un po' di fortuna lo oltrepassa. E allora si vince. Oppure no. E allora si perde. A proposito di americani, Marilyn Monroe ci ha passato 3 settimane. Signori, è con immenso piacere che vi presento una donna che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Una grandissima attrice per la prima volta in visita a Londra. Marilyn, è vero che a letto indossa solo profumo? Tesoro, visto che siamo in Inghilterra, indosso solo lavanda inglese. Cameron Diaz c'è stata solo per le ferie natalizie, per scoprire che l'amore non va in vacanza. Si chiude una porta, infatti, e si apre un portone. Sliding doors, direbbero gli inglesi, e ci aggiungerebbero una battuta. Su con la vita. Sai Monty Python cosa dicono? Nessuno si aspetta l'Inquisizione spagnola. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma apre la finestra sulle sale, sul grande schermo, con due novità importanti, due novità da alta stagione assolutamente, che arrivano nelle sale. Una è già al cinema da qualche giorno, l'altra sta per arrivare, lo farà all'inizio della prossima settimana. Due titoli come I Mercenari 2 di Expendables di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, e l'altro Madagascar 3, un altro sequel di uno dei brand e dei franchise più importanti dell'animazione degli ultimi anni. E allora ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, interessante il fatto che insomma qualcuno ci provi a foraggiare, ad alimentare le sale anche in questo primo weekend post ferragostano, con le città presumibilmente ancora semideserte, ma con titoli, come dicevo prima, ad alta stagione. Cominciamo un attimo a parlare del sequel dei Mercenari. Lo ricorderete, il primo film aveva riunito, anche simpaticamente, non senza ironia, tutta una stirpe di attori, da Sylvester Stallone a Dolph Lundgren a Jason Statham a Bruce Willis. Stavolta c'è anche un Arnold Schwarzenegger che fa qualcosina in più rispetto al primo film. Insomma, c'è dentro tutto quello che è stato il cinema d'azione puro degli ultimi 20-25 anni. E quindi I Mercenari 2 di Expendables 2, per continuare a divertirsi con sparatorie, azioni di inseguimento, attentati e tutto quanto di più sanguinolento ci sia nelle action movie. Sentiamo questo trailer. Sei carico? Lo spero. Qualcuno è fissato. E io vi dichiaro marito e pugnale. 3 chili di plutonio puro sono abbastanza potenti per cambiare l'equilibrio del mondo. Immagina 5 tonnellate. Vi serviranno altri uomini se volete uscire da qui. Sono tornato! Il contenuto di quella cassaforte non può finire in mani sbagliate. Qual è il piano? Cercarli, trovarli e ucciderli. Come hai fatto? Fortuna. Sali! Non mi entrano i piedi qui dentro. Spara intanto! E ora fai quello che penso? Lo faccio! Ti servirà un nuovo aereo! E allora, il clima l'avete capito, insomma, non c'è molto da scoprire. Boris, quello che c'è in più e in meno rispetto al primo film è soprattutto il peso e il minutaggio di alcuni attori. No, assolutamente, devo dire che può sembrare folle, ma è gustoso comunque il film, perché soprattutto per chi ha vissuto il momento dell'action, diciamo, nel periodo d'oro, non si può non provare soddisfazione di fronte a un tale eccesso di star di quel genere, insomma, alcune anche in discreta forma. Lo stesso Stallone, insomma, sembra sicuramente migliorato rispetto alle ultime uscite, anche se questo film purtroppo non gli ha portato molta fortuna, perché il figlio 36enne Sage è morto proprio durante la promozione di Expendables 2. C'è un minutaggio diverso, secondo me anche più equilibrato, insomma, al posto delle figurine si è voluto ricreare veramente una squadra. Lo si vede anche dal tentativo di costruire una trama un po' più articolata, per quanto possa essere articolata la trama di un film come Mercenari 2, però insomma una missione che dovrebbe essere comoda e che si trasforma invece in una sorta di trappola. I due diciamo fuoriusciti che tornano a dare una mano, diciamo è un team up vero e proprio, costruito anche in maniera quasi fumettistica, con un'occhiata a quello che sono diventati e a quello che dovranno fare insieme. Ovvio che bisogna essere straordinariamente fanatici del genere per amare Mercenari 2. Di sicuro, se vi piace il cinema iraniano o se siete patiti di un cinema d'autore molto riflessivo, ecco, ve lo sconsigliamo. Se però vi piace anche un po' il cinema fracassone, quello con frasi fatte, tanta violenza però molto coreografata, onestamente, insomma, io ce lo porterei mio figlio a vedere Mercenari 2, perché è più divertente che pericolosa, e allora Mercenari 2 è un'opzione, soprattutto per l'estate. Secondo me è una buona tattica, sia in America sia in Europa, perché escono contemporaneamente, metterli in pista in questo momento. Mi sembra la stagione più adatta. Ecco, tra l'altro, appunto, perché è una violenza molto esibita, ma anche molto dichiarata, e il gioco è tutto dichiarato. È un film di icone, questo qui, no? È un film di personaggi che vai a vedere per il gusto anche di vedere proprio quelle facce che ricompaiono sullo schermo. È una sorta di rentré, di ritrovo tra vecchi amici. Questo è I Mercenari 2 di Expendables. Andiamo avanti e parliamo invece di un film dove azione ce n'è tanta lo stesso, c'è anche animazione, tanto per fare un po' un gioco di parole. Madagascar 3, ricercati in Europa, torna la banda di animali più pazza del mondo. Ogni anno milioni di animali migrano verso casa, ma alcuni lo fanno meglio di altri. Un momento, non è New York. Come? Ho detto un momento, non è New York. Come faremo ad attraversare l'Europa senza dare nell'occhio? Come? Attenzione, abbiamo individuato degli animali a piede libero! Chiamate il capitano Boa degli accalappiatori! Poveri animali, avrete a che fare con me. Gli sbirri, ora che facciamo? Non possiamo mimetizzarci, non siamo in Africa! Fate centrare! Vai, andiamo. Grazie, scenderemo alla prossima fermata e torneremo in America. Anche noi siamo diretti in America. Cosa? Possiamo venire con voi. Wow. Questo treno è solo per animali di circo. Ma noi siamo di circo. Che numero fate? Circo, afro, circo, afro. Con i pua, afro. Quello da solo valeva il prezzo del biglietto. Tornano Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo. Si ride ancora molto e come sempre le trovate anche di sceneggiatura sono notevoli, Boris. Assolutamente sì, e devo dire che questo probabilmente è il migliore dei capitoli. Mi incuriosisce come Madagascar, a differenza del 99% delle saghe, sia andato migliorando nel tempo. Insomma, all'inizio era il classico film d'animazione che metteva insieme animali antropomorfi e che non arrivava neanche per primo a questa soluzione. Adesso è diventato un film che forse l'unico difetto che ha è che non è certo possa piacere troppo ai bambini. Di sicuro li farà impazzire i genitori, perché in qualche modo sembra una sorta di Disney sotto acido, con questi animali che partono da un presupposto folle, cioè loro sono riusciti a riconquistare la libertà con questa fuga in aereo, con questo atterraggio di fortuna, sono in Africa, ma incomprensibilmente, o forse più comprensibilmente di quello che si può pensare, hanno nostalgia dello zoo. Perché hanno nostalgia dello zoo? Hanno nostalgia della fama, hanno nostalgia degli uomini che li applaudivano, che si divertivano quando facevano le loro acrobazie. Non è male, secondo me, come metafora dello Star System, perché ovviamente poi il ritorno a New York li farà invece toccare con mano quale sarà questa situazione. Qual è la grande trovata di questo film? È che l'avventura che vivono in questo Madagascar 3, proprio in Europa, è quella del circo. Loro, per fuggire a chi li cerca, nascondono in un circo, entrano in questo mondo di emarginati, di circensi, ognuno ha una propria storia, anche abbastanza triste in alcuni casi, e ci portano tutta la loro allegria, tutta la loro follia, perché poi Alex e compagnia sono essenzialmente folli, scelgono sempre la strada più incredibile alla soluzione anche più facile, e diventano dei circensi anch'essi, costruendo un gruppo molto molto particolare, e trovano forse la loro strada, che è una strada che onestamente nessuno si sarebbe aspettato all'inizio del film e probabilmente all'inizio della saga. Ha un finale che anche emotivamente ha una sua forza. Io devo dire che può sembrare strano dirlo di un titolo così, ma è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi anni nel campo dell'animazione. Mi sono divertito, mi sono intenerito, ho ascoltato buona musica, perché Madagascar ha avuto sempre questa caratteristica di avere delle colonne sonore straordinarie, e ho visto una qualità d'animazione che non vedevo da parecchio tempo. Quindi assolutamente promuovo Madagascar 3, andate bambini e portateci i genitori, perché probabilmente vorranno rivederlo una seconda volta. Benissimo, allora Madagascar 3 promosso dal nostro Boris Sollazzo. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana, dovremo fare un po' di chiacchiere sul Festival di Venezia, che sarà lì pronto per cominciare. Ciao Boris. Sarà un piacere Franco, ciao. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Noi continuiamo, nonostante qualche segno di vita da parte della sala per quanto riguarda le novità questa settimana, dicevo, continuiamo a parlare di novità invece della stagione, di novità del cinema italiano. Lo stiamo facendo ormai dall'inizio del mese di agosto qui alla Rosa Purpurea, proponendovi interviste esclusive con i protagonisti italiani della prossima stagione cinematografica. Oggi un altro quartetto di film di cui ci occupiamo. Cominciamo con Alessandro Genovesi, con un regista che nel suo film d'esordio Dietro la macchina da presa ha avuto un discreto successo con La peggior settimana della mia vita. Il cast vedeva Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania e altri. Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Antonio Catania sono anche nel nuovo film Il peggior Natale della mia vita, nella piena tradizione, insomma, dello squadra che vince non si cambia. Eccoci cambiare da settimana a Natale, ma insomma l'atmosfera rimane quello, il tentativo anche quello di far ridere il massimo degli spettatori possibili. E allora andiamo ad ascoltare Alessandro Genovesi, regista del Peggior Natale della mia vita. Ma guarda un po', una commedia sul Natale, però questa volta viene da dire, leggendo il titolo almeno, meno male che arriva una volta sola all'anno. Ma abbiamo provato, nel senso che comunque le consegne e gli obiettivi, anche parlando con i produttori, erano quelli di proseguire con un tipo di film e un prodotto che avesse così le possibilità di essere largo e quindi abbracciare un pubblico abbastanza vasto. E quindi a me ha sempre, non so, era una cosa che mi ha sempre affascinato, quella di affrontare, di provare a portare a Natale una cosa, in questo caso specifico una commedia, che avesse dei toni leggermente differenti da quelli che siamo stati abituati a vedere. E mi sembrava una sfida interessante da fare, perché lì è un campionato, insomma, già mi ritrovo appunto nella Serie A all'improvviso, e quello è un campionato ancora più speciale, più grande, e in più a me fa sorridere, insomma, di fare un film che esca a Natale. È una cosa che mi diverte, mi diverte, e così è una sfida che sono contento di fare. Una sfida che ha dei progenitori anche importanti, cioè da Monicelli a Conne Noel, ecco, cioè c'è comunque una vena del cinema europeo che ha raccontato il Natale in maniera così tagliente, diciamo. Cioè, assolutamente, io ti ringrazio dei riferimenti.